ci trovi tutto quello che scarti tu. Lui parla poco ma passa i fatti e lo vedrai. Se non fai qualcosa tra qualche anno te ne pentirai. Quanti pezzi di plastica hai buttato già via? Non mi dire così, non mi dire cosa. Ma davvero pensavi che non è colpa mia? Non mi dire così, non mi dire cosa. Se questa donna vuole offrirti il suo cuore, devi essere sempre gentile con lei. Non vedo più erba sui prati, ma soltanto dei mostri grigi che si mangiano aria e spazio. E tu cosa mi dici? L'hai spinta nel cielo in un buco che di certo non m'appartiene. E forse un domani